in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Oggi ci sono aperture abbastanza diverse, alcune si concentrano su quello che è successo all'estero, quindi in particolare il viaggio di Donald Trump, suo primo viaggio all'estero e questa tappa in Arabia Saudita. Altri parlano della manifestazione a Milano e vediamo, appunto, cominciando dal Sole 24 Ore, che invece fa un bilancio di questa settimana che si è chiusa con un andamento molto positivo di Piazza Affari. Questa è stagione di trimestrali, ma è anche la stagione in cui vengono staccate le cedole, quindi vengono dati gli utili alle aziende che naturalmente hanno chiuso il 2016 in utile. E quindi il titolo, con poi un'analisi a pagina 3 di Andrea Franceschi, Piazza Affari torna a correre, gli utili salgono a 8,7 miliardi. Poi vi segnalo un'intervista a Guzzetti, che è Giuseppe Guzzetti, che per 25 anni è stato presidente della Fondazione Cariplo, quindi una fondazione, forse una delle più importanti fondazioni bancarie, ha visto molte trasformazioni del sistema bancario. Marco Ferrando, Alessandro Graziani lo intervistano. Il titolo dell'intervista, che poi trovate a pagina 15, è Finanza e Welfare, Cariplo è stata un fattore di stabilità. Continua il nuovo weekend, ormai siamo arrivati però già alla decima settimana, alla sesta settimana di queste due iniziative che trovate ogni domenica sul Sole 24 Ore. Uno è il viaggio di Carlo Ossola nei luoghi storici dell'Europa, e questa settimana ci racconta tutto di Leopoli, settimana prossima sarà la volta di Odessa. E invece per gli incontri Luca De Biase ha incontrato Diego Piacentini, che è stato il vice di Jeff Bezos, fondatore e attuale amministratore delegato di Amazon, e adesso è consigliere del governo per l'agenda digitale. Il Corriere della Sera, come vi dicevo, è tra quei giornali che si concentra sugli avvenimenti all'estero, due in particolare. Uno è il viaggio di Trump, che però è stato seguito da quello che sta succedendo in patria, quello che viene chiamato il Russia Gate, soltanto all'estero, perché sapete che questo vizio di aggiungere gate per indicare uno scandalo è una cosa che in America sembrerebbe abbastanza strana, perché tutto prende origine dal Watergate, ma Watergate non è una parola composta, era il nome dell'albergo dove avvenne lo scandalo delle perquisizioni volute da Nixon al quartier generale dei democratici. Comunque noi chiamiamo così qualsiasi cosa ormai, e quindi ombre su Trump nel Russia Gate, anche il genero è il marito di Ivanka Trump, che è la figlia di Donald Trump e della sua prima moglie Ivana Trump. La fotonotizia però è dedicata alla marcia che c'è stata ieri a Milano. Gli organizzatori parlano di 100.000 persone, questa marcia che voleva essere il titolo era Insieme senza muri. Il sindaco Sala l'ha sintetizzata nel senso di sindaco di Milano Giuseppe Sala, di dire: io voglio essere un costruttore di ponti e non di muri. Vi segnalo anche dalla prima pagina l'altro evento all'estero, che sono state le votazioni politiche in Iran, dove ha rivinto Rouhani, che naturalmente per gli standard occidentali è un moderato, rispetto ai suoi predecessori, per esempio Rafsanjani, però permangono le tensioni con l'Iran, perché ancora molto c'è da fare, e soprattutto quell'accordo storico siglato da Rouhani con l'amministrazione Obama nel 2015 per il nucleare è uno dei punti che viene contestato dall'amministrazione Obama. Non l'ha ancora affrontato di petto, però per esempio andando in Arabia Saudita alcuni messaggi all'Iran li ha lanciati, e come. Il titolo comunque del Corriere: vince Rouhani, il moderato, una nuova era per l'Iran. La Repubblica ha una fotonotizia che fa riferimento proprio a questo e ritrae Trump con il re dell'Arabia Saudita Salman. Molti commenti, uno di Roberto Toscano: le spine di Rouhani, e il racconto di questo viaggio di Federico Rampini, che ha seguito Trump a Riyadh. Di spalla però, con una certa enfasi, 100.000 di Milano, siamo tutti migranti. Nel sommario si sottolineano anche alcune parole di Piero Grasso, che è il presidente del Senato, ha partecipato a questa marcia della pace. con la Repubblica, come ogni domenica in edicola L'Espresso. La copertina è dedicata a un'inchiesta fatta dai giornalisti dell'Espresso su Malta, che viene definita l'isola del tesoro perché è un paradiso fiscale, anzi, secondo appunto l'inchiesta dell'Espresso, è il paradiso fiscale dell'Unione Europea più amato dagli italiani. Politici, manager e imprenditori che fanno affari segreti, legali e non. La Stampa proprio titola su Trump a Riyadh, patto, ecco qua, patto anti-Iran. Nel giorno della rielezione di Rouhani, monito congiunto, ritiratevi da Siria e Yemen. Un monito per l'Iran. Fotonotizia dedicata a questa marcia che viene definita marcia dei 100.000 e tra l'altro un'interessante intervista, io prima ho detto Rafsanjani, scusatemi, intendevo dire Ahmadinejad, il predecessore di Rouhani che è moderato per nessuno standard né occidentale né di altro tipo, non lo era sicuramente, che dice il confronto con i sauditi non avrà fine. Il Messaggero ha un titolo completamente diverso perché ha un'intervista di Barbara Yerkov a Silvio Berlusconi. Il titolo quindi del Messaggero, ed è anche un virgolettato preso dall'intervista, patto per votare in autunno. Si è parlato molto nei giorni scorsi di queste possibili elezioni anticipate anziché a scadenza naturale della legislatura nella primavera del 2018, prima in ottobre. Dopo, se abbiamo tempo, leggeremo una parte di questa intervista. La fotonotizia però è dedicata alla vittoria della Roma sul Chievo, che sapete è adesso in questo momento a un punto solo dalla Juventus, ma la Juventus deve incontrerà il Crotone e insomma non è così questo meno uno, è molto probabile che non resti un meno uno, ma insomma vedremo. L'Avvenire è un'apertura ancora diversa, anche qui un virgolettato però di Papa Francesco, dramma lavoro. Ieri infatti nell'unienza alla Fondazione Centesimus Annus, Papa Francesco ha chiesto che tutti ci si concentrino nel piccolo, nel medio, nel grande, su modelli di crescita diversi. Il Papa ora un'economia che dia occupazione. Intervenuto anche Enrico Giovannini, ex ministro e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ha detto la strada appunto è lo sviluppo sostenibile. Poi naturalmente bisogna vedere che cosa si intende per sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda la notizia del viaggio di Trump in Iran, l'Avvenire è l'unico che sceglie di titolare, tra l'altro l'Avvenire rifacendosi anche alla battaglia di Papa Francesco contro l'industria delle armi, titola su questo, cioè perché Trump ha firmato un accordo miliardario di fornitura di armi made in USA all'Arabia Saudita. Il giornale, il partito pro-scafisti, da qui capite subito, in piazza a Milano il partito pro-scafisti, la posizione del giornale sulla manifestazione di ieri. Sala, il sindaco di Milano, Grasso, il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, islamici, COP e centri sociali, migliaia in corteo per avere più immigrati. L'interpretazione è questa, che sono andati in corteo per avere più immigrati. Vi segnalo però, perché questa è una questione molto delicata e che a me ha sempre molto colpito, ed è quella dell'omicidio del commissario Calabresi. Ieri, devo fare questa premessa perché il titolo del giornale, dell'editoriale di Alessandro Sallusti è «Caro Scalfari, non puoi dare lezioni a nessuno», perché ieri Eugenio Scalfari, che poi si esercita anche oggi nella sua lenzuolata domenicale, ma ieri, rispondendo indirettamente a un articolo di Vittorio Feltri su Libero e anche ad altre persone che hanno parlato di questa vicenda, perché si avvicina come ogni anno, anzi ormai è passato l'anniversario dell'omicidio del commissario Calabresi, che avvenne il 17 maggio del 1972 in un agguato terroristico. Non so quanti ricordano questa vicenda, se ne parla giustamente, se ne continua a parlare, in particolare quando cade questo anniversario. Aveva 35 anni il commissario Calabresi quando fu ucciso e un anno prima circa era apparsa sull'Espresso una lettera firmata da 800, alla fine all'inizio erano solo 10, poi nei giorni successivi divennero 800 protagonisti in qualche modo della società italiana, che firmarono questa lettera che chiedeva, ma con toni molto duri, con un linguaggio direi violento, che Calabresi fosse trasferito perché gli imputavano la responsabilità della morte dell'anarchico Pinelli, che era stato accusato della, ingiustamente poi abbiamo saputo, della strage di Piazza Fontana. Ieri Scalfari ha praticamente detto che quello che fa Feltri attaccandolo è ciarpame, altro tipo di giornalismo. Io adesso tra un momento ci fermiamo per la pausa per il meteo e per una pausa di altro genere, ma il giornale ha poi, credo meritoriamente davvero, Libero ha ripubblicato i firmatari di quell'appello, ha ripubblicato l'articolo di Camilla Cederna sull'Espresso pubblicato il 13 giugno del 1971, quindi meno di un anno prima della morte di Calabresi, prima dell'assassinio di Calabresi, e riporta anche parte di quella lettera aperta. Io credo veramente che al di là di leggere chi vuole il battibecco tra Scalfari e Feltri, andiamo a vedere i fatti e vediamo appunto questi signori che avevano, signori e signore che avevano firmato la lettera, perché quella lettera esiste, le loro firme esistono, ed esiste anche naturalmente la morte di Pinelli, su cui non è mai stata fatta luce completamente, e soprattutto l'assassinio del commissario Calabresi. Ci fermiamo però un attimo. La natura di prima mano vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Quella di Libero ha un titolo abbastanza simile a quella del giornale: Ricchi in piazza, soci dei migranti. Quindi è un titolo molto polemico sulla manifestazione di ieri a Milano, che secondo gli organizzatori ha coinvolto 100.000 persone. Ma vi dicevo la vicenda Calabresi, e aggiungo solo due piccole cose. Che è chiaro che io, che sono nata nel 69, quel clima non l'ho vissuto. È molto molto difficile parlare di quegli anni per chi non li ha vissuti. Erano gli anni di piombo cosiddetti. Quello che, ed è anche vero che Scalfari ha definito la sua famosa firma alla lettera aperta dove si chiedeva la rimozione del commissario Calabresi, che poi un anno dopo fu ucciso in un attentato terroristico, lettera aperta apparsa sull'Espresso a margine di un articolo di Camilla Cederna. È pur vero che Scalfari ha definito quello un errore, e quello che trovo abbastanza eclatante è questa abitudine molto italiana di autoassolversi sempre e comunque, anche quando gli errori sono molto gravi. E allora Feltri risponde appunto su Libero: sarò un teppista, perché così l'ha chiamato Scalfari, ma io distingo tra errori e crimini. E vi dicevo, a pagina 12 e 13, Libero di oggi ripubblica tutti i firmatari di quell'appello contro il commissario Calabresi, di cui vi riporto alcuni passaggi, perché Scalfari non lo riporta naturalmente questo appello, e ne fa intendere che i toni non erano così gravi. Allora, i toni sono questi: chi porta la responsabilità della fine di Pinelli, Luigi Calabresi, ha trovato nella legge la possibilità di recusare il suo giudice. Lo spunto infatti di tutto questo è che la difesa di Luigi Calabresi aveva fatto ricusare il giudice. E poi quest'altra parte: una ricusazione di coscienza rivolta, testuale, ai commissari torturatori, ai magistrati persecutori, ai giudici indegni. E tra i firmatari di questa lettera, che trovate, ripeto, trovate l'elenco completo alle pagine 12 e 13 di Libero di oggi, ci sono per esempio registi come Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci e Tinto Brass, poi filosofo Norberto Bobbio, Giorgio Bocca, Umberto Eco, Giulio Einaudi, Tullio De Mauro, Federico Fellini, Inge Feltrinelli, Natalia Ginzburg, l'avvocato Lino Iannuzzi, Carlo Rossella, Claudio Risè, Pierpaolo Pasolini, ahimè, Paolo Mieli, Eugenio Scalfari, lo sappiamo, Giuseppe Turani, un altro giornalista, Angela Terzani e Tiziano Terzani. Sono 800, quindi ho dovuto per forza fare solo delle piccole citazioni. La Verità: i soldi dati all'azienda dei Renzi grazie al faccendiere di Consip. Quindi La Verità si concentra sulla questione, sull'indagine appunto che ha colpito la Consip, che sapete è la centrale che decide gli acquisti e gli appalti della pubblica amministrazione. Il manifesto Milano da accogliere, con una foto scattata ieri alla manifestazione, circa 100.000 persone in piazza Milano. Il Fatto Quotidiano, Renzi grida al golpe giudiziario, e qui è di nuovo il riferimento è all'inchiesta Consip, e poi però anche altri titoli, uno in particolare dedicato ai 5 Stelle che ieri hanno partecipato a questa marcia per la pace ad Assisi, e Beppe Grillo ha detto che i 5 Stelle sono i nuovi francescani. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX per una notizia che trovate anche su altri giornali, ma che giustamente il Secolo XIX, che è il giornale di Genova, mette in prima pagina, perché stanno arrivando questi robot fisioterapisti e sono nati da un'azienda che ha dei laboratori. L'azienda si chiama Movendo, i laboratori sono proprio a Genova, e quindi giustamente il giornale dà grande spazio. Poi due storie di cronaca divertenti, una un po' meno, ma una sicuramente divertente lo è: un animale conteso a Genova, un gatto, l'affidamento del gatto che amava due padroni, era un gatto un po' infedele, si divideva tra due case, il giudice alla fine decide, perché una di queste due persone, con le proprietaria di queste due case vicine, aveva deciso di trasferirsi e portare il gatto con sé, l'altra si opponeva, il giudice ha detto lo diamo a chi l'ha vaccinato, a proposito di vaccini. Invece, appunto, un'altra storia di cronaca molto meno divertente: ad Albaro, un quartiere di Genova, dove c'era un rinfresco per una comunione, ha fatto irruzione un cinghiale. Sapete che i cinghiali stanno, come altri animali selvatici, si stanno spingendo all'interno delle nostre città per tanti motivi, e sono animali molto pericolosi, ed è stato immediatamente abbattuto questo cinghiale. Andiamo alle pagine interne e a proposito di sanità, due pagine di approfondimento su Nova, che come ogni domenica trovate sul Sole 24 Ore, sulla sanità del futuro e soprattutto sui rapporti tra tecnologia e sanità, la Digital Revolution e la sanità sostenibile. Scrive Francesca Cerati: siamo in una fase di vera trasformazione dei sistemi sanitari tra i device obsolescenti e la tecnologia digitale che avanza. Poi vi dicevo l'intervista a Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, la trovate a pagina 15 del Sole 24 Ore, fatta da Marco Ferrando e Alessandro Graziani, e appunto questo signore che ormai ha una certa età, veramente ha visto i cambiamenti del nostro sistema bancario e dà la sua interpretazione. Alla pagina invece 19 trovate, come alla pagina 18 trovate l'incontro con Diego Piacentini, alla pagina 19 il reportage di Carlo Ossola da Leopoli, che viene definita città di sogni e di confini annullati. Poi, come sempre la domenica, la pagina dedicata a sport e business. Questa settimana il focus è sul basket e sulla mille miglia. Basket per l'Eurolega, record di pubblico e ricavi. Invece per quanto riguarda la mille miglia, che oggi si chiude questa corsa che viene definita una classica dell'automobilismo e fatta solo con auto d'epoca, che in questa edizione attraversano 206 comuni, poi l'arrivo è a Brescia e che pensate debuttò nel 1927. E poi stranamente, non ho visto in prima pagina, me l'aspettavo, ma forse appunto sono forse un po' pessimista, in realtà è giusto che non fosse in prima pagina, ma io pensavo che tutti l'avrebbero messa in prima pagina, le nozze di Pippa Middleton, la sorella di Kate Middleton. Tutti i giornali danno spazio all'interno, in particolare Enrica Roddolo sul Corriere, che sui reali di tutto il mondo, ha scritto anche parecchi libri, ci racconta appunto queste nozze. Ieri Pippa Middleton ha sposato il suo fidanzato, che è un finanziere della City, e l'articolo inizia con "la sposa era bellissima". Molto interessante sul Corriere un'intervista al procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone, che naturalmente questi sono i giorni in cui si ricorda la strage di Capaci, l'attentatuni, che ormai è successo 25 anni fa, e l'anniversario esatto sarà martedì, perché il giorno di quell'attentato in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta fu esattamente il 23 di maggio del 1992. la mafia con la strage di Capaci cercava nuovi referenti politici. No, ricordiamo naturalmente quella era anche l'anno di Tangentopoli. Vi segnalo poi dalle pagine interne della Repubblica anche questa cosa che veramente fa piacere. A Milano c'è questa iniziativa che si chiama Piano City, finisce oggi, con concerti gratuiti di pianoforte, e è incredibile, anzi bisogna crederci e bisogna prenderlo secondo me appunto come un segnale positivo. Che dimostra ancora una volta che se si offrono degli avvenimenti culturali nel senso più ampio del termine, le persone rispondono, e come. Pensate, ieri, all'alba di ieri, Michael Nyman, che è un grandissimo pianista e compositore, ha fatto un concerto all'alba e si sono presentate migliaia di persone per seguire questo concerto all'alba al Parco Sempione di Milano. Ci fermiamo però ora un attimo per un breve aggiornamento sul traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci ritroviamo per l'ultima parte della nostra rassegna. C'erano tantissime cose da segnalare, però vi segnalo ancora un paio di articoli dalle pagine interne, poi passiamo ai supplementi culturali. La Stampa, come sempre di domenica, ha una sua inchiesta, e questa settimana è sui millennials, scrive il titolo della Stampa: spengono le luci della discoteca. Infatti i millennials, sapete, sono convenzionalmente le persone nate dopo il 1980, sono giovani, ci sono i ventenni, ma ci sono anche chi ha qualche anno più di 30, e meno 2 milioni di ingressi di giovani tra 20 e 34 anni. Feste private e social network stravolgono la movida. Ma poi vi dicevo, l'anniversario che sta per arrivare sarà martedì della strage. Sono passati 25 anni, la strage di Capaci. Sempre sulla Stampa, Francesco Lalicata firma un bellissimo articolo: l'eredità di Giovanni Falcone, forza morale e metodo, il giudice che piegò i boss. E poi naturalmente c'è anche bisogna ricordare, anche lì ci saranno tra poco i 25 anni, quelli saranno esattamente il 19 di luglio, 25 anni dall'attentato invece di Via D'Amelio, dove perse la vita Paolo Borsellino, appunto a 2 mesi dalla morte di Giovanni Falcone, con il quale collaborava da tantissimo tempo. Stampa vi segnalo anche, non perché non ci sia sugli altri giornali, ma perché anche qui è l'evento di Torino e la Stampa è il giornale di Torino per eccellenza, un primo bilancio del Salone del Libro, che in realtà chiude domani, dopo tutta la polemica col fatto che Milano aveva deciso di farsi la sua fiera Tempo di Libri, che ha avuto meno successo del previsto, e invece Torino, che tra l'altro si pensava ne avrebbe avuto meno proprio perché c'era già stata quella di Milano, invece no. I giorni dell'euforia, titola la Stampa. Ieri il record di 40.000 ingressi, era presente anche il ministro per i beni culturali Franceschini, che scrive la Stampa: tenta la via per la pace con Milano, 2 saloni differenziati per generi con un'unica governance. E naturalmente si potrebbe, ma si è detto quando era stato annunciato Tempo di Libri, quanto assurdo fosse avere appunto 2 saloni, visto che poi il Salone di Torino ha una grande storia ed è un'eccellenza dell'editoria, ma anche delle fiere, se confrontate con l'Europa, che appunto ci si mettesse a creare, come purtroppo spesso succede in Italia, una sorta di rivalità tutta italiana. Ma veniamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Nel tramonto e che prende spunto dai versi di un poeta che moriva 50 anni fa ad Albissola, in provincia di Savona, il poeta italiano Angelo Barile. I versi sono questi: a tarda sera, quando prego pace ai miei morti, a una vi chiamo per nome, mie sensibili anime. In un lampo a ciascun nome mi risponde il viso desiderato e il sangue vi ripalpita. E scrive Monsignor Ravasi: come ieri, 50 anni fa, moriva il poeta Angelo Barile, le cui liriche, fondate in realtà semplici e quotidiane, lasciavano intravedere in filigrana metafore religiose irradiate di una fede pura e dolce. Non di rado affiorano in quei versi volti delle persone che lo hanno amato e che ora sono nell'oltre divino eterno. È il caso dei versi che abbiamo citato, così sereni, immersi nel crepuscolo della sera, simbolo del tramonto della vita. Il poeta sta recitando le sue preghiere, nell'orizzonte della sua memoria sfilano le tante persone care che hanno varcato la soglia della morte. Egli le chiama per nome facendole rivivere, esse si presentano coi loro volti sorridenti come se nelle loro vene palpitasse ancora il sangue. È la grande forza del ricordo. Non per nulla nella liturgia cristiana si parla di memoria dei santi nel giorno anniversario della loro morte, cioè di un riportare al cuore, facendo rivivere chi si è amato in una presenza che è reale, sia pure in forme diverse, sia per il cristiano sia per il non credente. E quanti echi possono avere, aggiungo io queste parole, in un paese che appunto soffre di amnesie di tutti i generi. Il caso Calabresi purtroppo lo dimostra, secondo me. La copertina vera e propria però del domenicale è dedicata a un'altra vittima del terrorismo, Carlo Casalegno, che venne colpito il 16 novembre del 77 e poi morì il 29 novembre, ed è stato il primo giornalista italiano ad essere assassinato dalle Brigate Rosse. All'epoca era vice direttore della Stampa. E sulla domenica lo ricorda Andrea Casalegno, suo figlio, anche perché domani al Salone del Libro verrà appunto fatto un ricordo di questo giornalista e vittima del terrorismo. Casalegno, la strategia della fermezza, il titolo del ricordo del figlio Andrea. Poi, come sempre, sul Sole 24 Ore della domenica, quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli. Questa settimana la copertina ci racconta, grazie a Sara De Ganello, di questi libri un po' gioco. Il titolo è Unisci i puntini e sarai nel deserto, adesivi da attaccare, differenze da scovare, dalla Walk of Fame di Hollywood al vulcano del Cerro Negro in Nicaragua. Viaggio con le guide fatte apposta per te, quindi guide per bambini che sono anche un gioco. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Reika Okubo, che è anche una stilista. Dall'interno vi segnalo un articolo di Alessandra Sarchi che racconta questo libro che si chiama Ombre, racconti ispirati ai dipinti di Edward Hopper, sicuramente uno dei più grandi artisti americani, vissuto tra l'Ottocento, era nato nel 1882, poi è morto a New York nel 1967. Alcuni dei suoi quadri sono, credo che tutti magari non sanno nemmeno che è di Hopper, ma se poi glielo si dice o glielo si fa vedere è comunque qualcosa che fa parte del nostro immaginario, anche perché sono stati molto sfruttati dalla pubblicità, dall'editoria, sono stati usati per copertine di dischi e quant'altro. E il titolo di questo racconto di Alessandra Sarchi, perché chiamare recensione questo formato che usa il Corriere è un po' limitante, è 13 scrittori per 13 Hopper, così la tela prende vita. La copertina di Robinson, invece, il supplemento domenicale della Repubblica, è un terzo occhio rivisitato, un'illustrazione che appunto il cui tema è il terzo occhio, futuro, istruzioni per l'uso, e all'interno appunto trovate tante opinioni su, è un gioco può essere un gioco anche molto serio, appunto, su cercare di prevedere, sapete che esistono addirittura i futurologi, cercare di prevedere che cosa ci riserva il futuro in un'era in cui la tecnologia cambia la nostra vita quotidiana anche molto in fretta, sicuramente più in fretta di quanto succedeva nel secolo scorso. Molto interessante il racconto della scuola creata dallo scrittore Eraldo Affinati, dove ragazzi giovani insegnano l'italiano agli immigrati. Naturalmente questo è un tema secondo me molto importante, visto che anche ieri con la marcia si è discusso tanto di immigrazione, quest'idea che in Italia è poco diffusa, ma per esempio in Germania o in altri paesi invece è una prassi consolidata, che la prima cosa concreta da fare per cercare, non necessariamente avere successo, ma cercare di integrare le persone che non sono nate nel nostro paese, è insegnargli la lingua del paese che li ospita. Che ha aperto loro le porte, diciamo così. A proposito di recensioni belle e interessanti. Vi segnalo, perché altrettanto bello e interessante deve essere il libro, su Robinson, la recensione di Luca Fraioli al nuovo libro di Carlo Rovelli, L'ordine del tempo. Sapete, questo fisico è anche un grandissimo divulgatore, e in questo libro ci parla del tempo, che è sicuramente una delle cose, dei concetti più misteriosi che si possano affrontare, tanto che a volte semplicemente rinunciamo a spiegarci la natura del tempo. Vi segnalo come ultimissima segnalazione la copertina di Alias del Manifesto, l'inserto settimanale dedicato alla cultura del manifesto, che parla di questo libro, che tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, Anatomia di un giocatore d'azzardo di Jonathan Lethem. È un libro che viene definito il gioco di Lethem con umani surreali, che ha fatto appunto molto parlare di sé e come ha avuto molto successo negli Stati Uniti. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi, una buona domenica da Giulia Crivelli.